And my name is Ragnar Pfizer. Eccoci, ben trovati a tutti. Ciao. Lunedì, okay. E come tutti i lunedì sera succede che va in onda una trasmissione che si chiama Ragnar Pfizer. Sono le 9 e qualche minuto. Voi magari siete a mangiare. Se siete a mangiare potete telefonarci con il chiaramente mentre boccone in bocca, è chiaro? E ci telefonate al numero 055 73 999 33. Boh, ci telefonate, magari ci dite quello che state mangiando e noi vi risponderemo. E sti cazzi! A parte gli scherzi, info.ragnampaisa, scritto ragnampizza con una z sola, @gmail.com è la nostra mail. Non so, magari vi prende di scriverci qualche insulto, lo potete fare liberamente. Le ricette, sì, della parodia, chiaramente. Se passate dall'autogrill trovate il libro della parodia, mi sa che ne ha scritto anche ora. Una ventina, sì. Uno per ricetta, uno per arbitro. Perché lei è la moglie di, non me lo ricordo? Caressa. Di Caressa. Maledetto. Ragnar Pfizer è una trasmissione contro gli arbitri e contro i gobbi. In generale, sì. Mentre siamo qua a dirvi cose inutili, io mi sono ritrovato sulla scrivania perché l'avevo preso la settimana scorsa questa frizzin. Sai che è una frizzin, no? È quella quando non porti il cappello d'inverno, no? Esatto. E ti viene gli orecchi rossi dal ghiaccio allucinante e uno ti dà un frizzino. Ecco, quella è una frizzin. No, è una frizzin, è una rivista gratis che appunto è uscito, si chiama FUL, Firenze Full, Firenze Urban Lifestyle. È il numero 2 di gennaio-febbraio 2012, quindi questo mi fa intendere che esce ogni due mesi. Vi dico questo perché dentro ci trovate un articolo su Marky Moon, con una bella foto a Michele Alunni. Guarda, te l'avevo fatto vedere. Vale. Una bella foto a Michele Alunni, che salutiamo, ciao Michele. The students. E niente, giusto, sono due mezze paginette, però tanto è gratis, se la trovate in qualche locale ve la potete prendere e vi leggete questo articoletto. Poi ci sono altre robe, parkour, date, le sneakers fiorentine, no? Cose interessantissime. C'è anche, ho visto, Fiumani. Il ritorno della musica fiorentina con Fiumani, eh? Sì. Guarda che occhi c'ha. È strano. Fantastico. Bene, detto questo, vi ricordo per l'ennesima volta il numero di telefono nostro, che è 055 73 999 33, e Tommy è pronto per partire con la sua selezione, quindi ci sentiamo fra poco. Look how you sit and look. I can sit has got a new discovery for you. The bad, bad Bigoton 2. Lord of Mercy, do it! This is good for you. Eastwood. I am the ugly one. If you want me, meet me at the big gun down. I am Van Cleef. Die! Die! Die! La tua selezione era molto mirata alle etichette Studio One e Technics, giusto? No, allora, l'altra volta fu detto di King's Teeth, della scomparsa di King's Teeth, però non feci in tempo a preparare niente, quindi ho portato un po' di roba, ho portato qualche pezzo stasera, e poi si è aggiunto Winston Reilly questa settimana. Purtroppo, sì. Purtroppo, produttore, cantante, insomma, per chi ascolta reggae dovrebbe conoscere, insomma, è stato il fondatore dei Technics, che sono stati uno dei gruppi rocksteady più importanti che ci sono stati in Giamaica, e fondatore anche dell'etichetta Technics, che ha dettato legge negli anni 80, chiaro, ma anche 90. Se siete amanti di reggae, non potete non conoscere la Technics, cioè, che è veramente una delle etichette di culto, diciamo. Sì. Eh? Sì. Visto che purtroppo stiamo parlando di necrologi, visto che questa settimana purtroppo è stata anche, come mi ha detto Pizzo l'altro giorno, è stata un'ecatombe. No, che poi voglio dire, nel senso, non è che fa piacere di dire queste robe, però come fai a non dirlo, no? Certo. Cioè, voglio dire, certo. Settimana è che... Se vuoi lo dica la Pizzo. E benvenuti anche questa settimana a Necrologi, alla puntata di Ritmo Radio Show sulle frequenze di Contro Radio. Pizzo ai controlli. Un saluto a Matteo, chiaramente. Ciao Matte. No, appunto, è scomparso Giancarlo Bigazzi, che viene ricordato magari da molti come fondatore degli Squallor. Però insomma, Giancarlo Bigazzi era un produttore discografico e uno dei più grossi compositori, ma soprattutto scrittori di testi, esatto, in Italia. Il famoso Bigazzi. Il famoso Bigazzi che tutte le volte a Sanremo leggi i testi di Bigazzi. Infatti c'è Rose Rosse, Gente di Mare, non amarmi perché... Massive Hit, la linea. Massive. Bella stronza. Vabbè, qui sì, giustamente, qui c'è, cioè, bella stronza. Facciamo citazione all'altezza, voglio dire. Non scendiamo di livello. Vabbè. O se no, cioè, ancora più in alto, self control. Vabbè, no, però self control, dai. No, appunto, cioè sopra self control, dirà. No, pensavo me ne dicessi una. No, ti potevo dire Nessuno Mai di Marcella Bella, ma insomma. No, e per chiudere la settimana in bellezza è scomparsa anche Etta James. Ora, Etta James non era, diciamo, nel fiore degli anni. Non ha avuto neanche una vita easy. Così facile, una, ecco, però easy. Comunque è scomparsa, mi pare avesse 73 anni. Che per la vita che ci ha avuto. Per la vita che ci ha avuto, insomma, diciamo sono tanti. Però è giusto ricordarla, perché comunque è stata una grandissima artista. È stata, diciamo, anche un'artista di quelle che ha anche cambiato un po' il modo di fare certa musica nera in quell'epoca. Cioè, comunque lei, diciamo, i primi successi ce l'ha avuti con la Chess Record. Che... Parentesi, vogliamo dirla? Vogliamo dirla? Del film? Infatti, ci stavo arrivando. Sì, appunto, la Chess Record, che è storica etichetta del 2120 South Michigan Avenue, dove io chiaramente sono stato a toccare. Io sono stato a toccare il giardino di Willie Dixon, a toccare la porta. No, vabbè, comunque la Chess Record è stata un'etichetta importantissima, perché è partita dal soul e blues, e diciamo che è stata quella che un po' ha inventato il rock and roll. Cioè, se pensate, negli anni 50 c'erano artisti come Chuck Berry, Buddy Guy, Howlin' Wolf, Little Walter e soprattutto Muddy Waters. Poi vabbè, anche i Rotary Connection negli anni 60. No, appunto, mi dicevi del film, e è un film che io consiglio vivamente di vedere, dove per l'appunto Etta James è interpretata da Beyoncé. Ben interpretata, direi, da Beyoncé. Sì, sì. Ma tutti fanno sì, anche Mos Def. Un buon lavoro, cioè Mos Def. Mos Def che fa Chuck Berry. Sì. No, è un gran film che consiglio di vedere, si chiama Cadillac Records. E appunto la storia di Leonard e Phil Chess, che erano i fratelli appunto fondatori della Chess Records. Quindi recuperatevelo. Poi rinnovo quello che avevo detto la settimana scorsa di questo ragazzo italiano che è residente a Berlino. Poi adesso suonerò un pezzo che si chiama, a questo progetto si chiama God Bless Computers. Se voi andate su God Bless Computers .bandcamp.com vi scaricate un po' di materiale suo. Ultimo, ma non ultimo per importanza, ricordo la serata di giovedì questo al Logic, dove ci sarà il buon Gammon. Mercoledì, cioè il giorno prima, uscirà il suo, diciamo, chiamatelo street album, chiamatelo mixtape, che si chiama Qualcosa è cambiato, ovvero Qualcosa cambierà volume 2. Quindi potete andare su iTunes, oppure potete comprarlo, immagino, su supporto fisico direttamente alla serata, Logic, direttamente giovedì sera. Io consiglio vivamente di acquistarlo, perché vabbè, ho avuto la possibilità di sentirlo già un paio di mesi fa. E non lo dico questo perché Gammon per me è un fratello, però è veramente un lavoro di spessore. Io reputo lui uno degli scrittori in Italia, uno degli scrittori veramente più forti, se non proprio nell'ambiente hip hop, proprio anche a livello generale. Per me è veramente uno scrittore con delle potenzialità veramente grandi, e dentro ci sono un po' tutti, da produttori a featuring, quindi potete andare a cercare su internet, vi beccate la tracklist, la copertina di Jack con tutte le specifiche delle poi, produzioni e dei featuring. Poi magari insomma lunedì prossimo. Sì, magari lunedì prossimo vedremo di fare qualcosa. E potete andare su rapburger.com e vi leggete anche un'intervista che è stata fatta di recente a lui. E ordinate anche un cheeseburgerino. E ordinate anche un cheeseburgerino. E magari vi leggete anche due o tre articoli che ho scritto io, che fanno schifo. Vada. Ma va. Bene, io me ne va, mi metto le pinne e boccaglio e maschere e vado nell'acquario. Pinne, fucile ed occhiali. Ed occhiali, occhiali già, già. Ti manca il fucile e le pinne. Vai che c'è Duccio. Yo. Something told

is all pearl. Now she's in purple, now she's a turtle. Disintegrating Christine, the strawberry girl Christine. Banana split later Christine, the strawberry girl Christine. Sees her face is unfurled. Disintegrating Christine, Christine, Christine, the strawberry girl, Christine, banana split lady, Christine, the strawberry girl, Christine, sees her face is unfurled. Thank you. Eccolo. Allora, siamo tornati qua. Abbiamo un ospite che ci ha raggiunto tramite il telefono. Abbiamo in collegamento Gianluca. Gianluca, ci sei? Ci sono. Grandi. Ciao. Bella. Allora, abbiamo in collegamento Naga, che sarà insieme al nostro Mille Lemmy protagonista di una serata che ci sarà domenica. Ce ne vuoi parlare un po', Gianluca? Sì, certo. Niente, vabbè, come sapete, si tratta di questo progetto che ha tirato su il Mille Lemmy. Si chiama ARP, Advanced Rap Poetry, ovvero poesia rap avanzata. Insomma, Francesco ha avuto questa idea, è stato l'ideatore di questo progetto, ha cercato di coinvolgere gli artisti che secondo lui avevano una certa linea stilistica, insomma. È una cosa un po' differente dal rap, cioè c'entra il rap ma anche no, nel senso che si sconfina in quello che poi viene chiamato slam poetry, è in tutto quel campo lì, insomma. Quindi è una roba, una sorta di reading. Sì, certo, una sorta di reading, una roba interessante. Io non vedo l'ora di cimentarmi, perché è una roba nuova anche per me, onestamente. Certo. Quindi sono contento di essere ospite di questa rassegna. È bella storia, insomma. E parlaci un po' di quello che fai, di quello che produci. Allora, niente, magari voi vi ringrazio di aver passato di Apason più volte, sono veramente onorato. Sì, di questa anche cosa, stasera ci sarà, visto che c'è una grossa stima, insomma. E niente, ho partecipato al disco di Biga, sono contento di esserci, perché ritengo che quel disco lì sia veramente una mina di quelle paurose. Eh sì. Tra l'altro ci sono dei remix potentissimi di quel pezzo, uno è di Colossius, tra l'altro di Matteo Bennici, sono veramente due mine spaventose che apprezzo tantissimo. Bene. Poi niente, ultimamente ho partecipato anche al disco di Mille Lemmy, Destroy Social Scene, cioè il pezzo Bohemian Groove col Daretta anche. Poi niente, c'è un po' di roba mia in giro sul mixtape Atomica Fitness, che ha varie partecipazioni, tra cui anche quella di Seca, Q, DJ Graf, Mental Detector, Gomez, insomma c'è un mio pezzo. E poi sono fuori col disco di Mestù, con ben due tracce che stanno sul disco di Mestù, Versatile, che si trova in giro. Niente, siamo in lavorazione con un progettino che dovrebbe uscire tra un po', mio e di Mestù, che è il mio socio, un produttore di Termoli veramente potente. E poi niente, sto producendo col mio amico Locat il disco dell'Insoul Veritas, che tra l'altro saluto perché so che sono in ascolto, grandi. E niente, abbiamo fatto un po' di beat, questi sono dei ragazzi molto giovani di Pescara, davvero bravi, e secondo me sono molto molto validi, insomma. Eh sì, la scena di Pescara ci regala un bel po' di... ci regala emozioni. Di realtà. Eh sì, Cantina Sociale, grandissimi. Cioè, loro insomma sono un bel pezzo della scena pescarese, non solo, visto che anche a Firenze, insomma, sono conosciuti e ben apprezzati. Tra l'altro c'è fuori il disco di Cantina Sociale con Wolfgang Shock, Naked Sample, che a mio modo di vedere le cose è veramente una bomba, davvero bello. Anzi, salutiamo anche loro, che sicuramente sono in ascolto. E grazie. Anche lo Zach da Berlino, il mitico Zach, grande. Benissimo. Comunque ancora non si è detto quando è sta cosa. Sì, è domenica 29 gennaio dalle 18 alla Casa della Creatività. Alla Casa della Creatività, alla Casa della Creatività, di fronte a Marky Moon. Esatto. E allora ci vediamo tutti là domenica. Un saluto, grazie di essere stato con noi, di averci parlato di questa cosa. Grazie a voi, ragazzi. E non riattaccare, non riattaccare. Ci salutiamo. Ciao. Bene, noi andiamo avanti con l'ultima parte di musica e ci sentiamo lunedì prossimo per un altro episodio di Ragnar Paisa. Yeah, yeah, yeah. Release in every moment that I grace a beat. people view me as strong cause they don't see the weakness that's caused by my inner demons that I battle frequent. So I'm frequent in my prayers to elude the madness that goes on across the globe as I watch the masses plummet in despair. I watch people complain while other people just pray for a little rain. It seems kinda strange just when you sit and observe and notice that society's driving people berserk, trying to mask the hurt, but it's hard to hide the obvious. Like remote control planes hitting the twin towers as I'm preparing myself to meet the final hour. I'm giving down within my actions and Lord's power, cause that fire's a real thing. Contrary to your beliefs, everybody gotta meet the king. Yo, open your eyes, look through binoculars, pay attention. Yeah. Misconception is the root to the false perception that often leads most people to a misdirection. Electing fools for leaders, playing the guessing game while the qualified leaders are locked in the cage. From Mandela to Rap Brown, the same cycle been going on since Pharaoh knew of a coming rival. This is survival transcended to spirit form. Between heaven and hell is where your soul's torn. From Philistine to Kashmir, the people suffering while we watch from a distance and plan to do nothing. Desensitized to lies told through the airwaves, but quarantined from the truth like it's a bad plague. Pray for the best, but trust me, the worst is yet to come. Motivating the people who lack to overcome, cause with every success story a struggle follows as we push for a bright future to come tomorrow. Truth always stand clear from falsehood, man. You ain't never gotta question it, regardless. Yeah, left. What you gonna do in London? Knocking at your front door.

Te tiembe tutto colorato come libidi, mungo e tiembe libidi, liri paradiso lati come libari, ribidi, bibida badibidi, anafanu te tiembe tutto colorato come libidi, mungo e tiembe libidi, liri paradiso lati come libari. Che se ne dicano non mollano mai, fanno stile come l'alligale o l'alliguai, con le rime non si molla mai, con le molle sotto butto giù e su, sto giù bot potro a che la cama gradi o strigne, pare brutto si è voto botto e botto come rinda panza bimbo che non sapo che la cala aspetti gagne, rebotto ma non sapo che la vita è una morsetta cata strigne, a meno che a mietta capi per meno meno meno male che 2x2 4x4 integrale, la differenza sta nel moto ondoso, acqua limpida per chi vero come me, bicchiere mezzo vuoto, credente di credenze con flu e rap poco nervoso, nonché menoso del fatto che ho un mensile poco costoso, su queste non ci giova, diventerà costoso quanto mancheranno in tegola, e mangerò fregole sì ma senza regole, perché mi regole che regole, brividi, bibita, badibidi, anafnute tiembe tutto colorato come libidi, mungo e tiembe libidi, liri paradiso lati come libari, bribidi, bibida badibidim, anafnute tiembe tutto colorato come libidi, mungo e tiembe libidi, liri paradiso lati come libari. Faliseo, Naga, nome Gianluca, Iacula, flussi, anima, golem, adulti, odio i sussulti di flutti, chiazza su macula, pone Pitagora all'apogeo, cabala, aldo, addendo su tavola, biga, movimento, terra, fondazione, mole, spelle, flow, sufida, uzi, eleva, nomi di numi, tempo di lupi nel tempio di Ulema, nubili inutili, gruppi, sumili, muti a piedi di seva, di sai, baba scava nel via, vai di tabloid, cavia di snap, movie, bugs, musi, daso, ami, casualità, vedi, nei sogni dei Cicis Bay, Naga Nexus 6, Negus Negesti, nell'Egida da Eliphas, Levi evoca Eschilo, epoca d'estimo, decatombe da bombe atomiche in decadi, decadenti da Dela, sioni perenni anela, Eschimo sugli 8000 di Messner, l'eco del Vademecum più bieco di Messner, i segni di Desdemona Metus in deficit, d'ancelle, le feca, veleno, sulle sentinelle, sulle sentinelle. Su Marco Capone, Pitagora all'apogeo. Il bandolo della matassa è una tassa a Satana, una scialba fabula, una calma caduca, una favola afona, una sciabola nel sabba. Elisa S come Tess, palindromo Abba, bindolo Alma, danni ballalba del cannibalismo, abita gabbia, avida in sabbia, abita tranze, scatola cranica, anzima, pentacoli pentotal, tentacoli diapason, diaze, pampa, nella mix, vendita d'avatar, volto pagina, mecenati longevi, ho occhi ciclopi in cicli, di samsara plus, scolopi scolpiti, su basso rilievi ambiti, avi primevi nativi dei suoli, DJ Gizza, flauto di Krishna per Gopi. Molti di nobili, vangeli apocrifi, alfabeti, codici, anatemi, obici. Passano occulto, coprofagi, fuggono il culto dell'ultimo apostolo in cambio di un posto su un volo low cost postero. Piste da asbesto tossico, copule a costo di una pasta di Rohypnol. We'll be right back.